Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 0024. Buongiorno, Gianfranco Fini. Il congresso di chiusura, di scioglimento di Alleanza Nazionale, la nascita nel prossimo fine settimana di questo nuovo partito, il Popolo della Libertà o delle Libertà. Gianfranco Fini è sempre stato per me così un po' un enigma. Devo confessare di non avere mai avuto una grandissima predilezione per questo leader politico italiano. Sono stato con lui nello stesso governo nel 94, diciamo, ho imparato a conoscerlo nel corso del tempo. Non gli ho mai negato naturalmente le qualità tecniche che sono sue: un buon oratore parlamentare, se non proprio un trascinatore di folle, un buon oratore da congresso di partito, però mi è sempre sembrato un po', insomma, la cosa che i cattivi denigratori di Fini dicevano era il vuoto incartato, cioè un po' formale, un po'... Beh, o mi sono sbagliato io, o ho sottovalutato Fini, oppure è nato un nuovo Fini, perché invece il discorso fatto alla Fiera di Roma domenica, l'ho sentito con molta attenzione attraverso la televisione, il satellite, beh, era un discorso molto corposo, molto forte, freddo, non sentimentale, non emozionale, ma tessuto tutto di idee, senza ostentazioni, esibizioni, citazioni, insomma non un discorso culturalista da pseudo intellettuale, ma proprio da leader politico, insomma. Ecco, è raro sentire discorsi di questo tipo, perché Berlusconi fa discorsi e poi assume comportamenti che vanno al di là, diciamo, dei confini della politica, e molto spesso negli altri leader, a destra, a sinistra, senza, è indifferente in questo momento la collocazione, i discorsi politici, penso che anche voi che state ascoltando insomma, in qualche modo questo fatto lo percepiate, sono così discorsi, ma che non hanno proprio quella, così, che non esprimono quel coraggio di esporre delle idee anche contro la tendenza. Fini è stato molto, ha fatto un discorso molto contrario all'identitarismo, contro l'identità, contro quella che Angelo Mellone, che è un commentatore del giornale, è un intellettuale, diciamo, del mondo, dell'area culturale della destra, definirebbe, ce l'abbiamo al microfono, per questo lo cito subito, la manutenzione della memoria, questa cosa conservatrice di andare sempre dietro i vecchi miti e di cercare di dare attraverso i vecchi miti quel frisson, quel brivido, quella spinta, quella frustata. No, Fini è stato molto ragionatore, molto trasversale, ha cercato di costruire la sua constituency, come dicono gli anglosassoni, insomma il suo pubblico d'appoggio, il suo popolo di riferimento, senza eccessi retorici, senza demagogia. E ripeto, adesso lo analizzeremo punto per punto il suo discorso e ne parleremo, così, con almeno spero, con una certa accuratezza e non senza, da parte di chi ha vissuto nel mondo della destra, non senza anche qualche emozione, insomma, per essere un discorso da Dio, un discorso tra virgolette storico, tutto è storico, è stato proprio, insomma, di livello. E fatti i complimenti a Fini, cosa che, siccome non ho mai fatto precedentemente, così, a me fa notizia, per me fa notizia, dopo la borsa ne parleremo con, appunto, come ho detto, Angelo Mellone, con Flavia Perina, che è deputata del Popolo delle Libertà e direttore del Secolo d'Italia, questo giornale che era, come pochi altri giornali al mondo, consegnato, diciamo, alla manutenzione della memoria, proprio un giornale molto vecchio, molto, molto legato a un vecchio linguaggio, e che è stato completamente rinnovato da Flavia Perina, da Luciano Lanna e da un gruppo di giovani persone di cultura, di intelligenza, di giornalismo, insomma, che hanno professionalmente fatto un giornale fresco, diciamo, che sa stupire, che sa spiazzare il nuovo, appunto, Secolo d'Italia. E più tardi dovrebbe raggiungerci anche Gianni Alemanno, sindaco di Roma. Eccoci qui a parlare di Fini e delle idee che hanno costellato il suo discorso, le idee al potere. Vorrei parlarne intanto con Flavia Perina, la direttrice del Secolo d'Italia. Buongiorno Perina. Buongiorno, buongiorno, e prendo atto della vera notizia, dei complimenti di Giuliano Ferrara a Gianfranco Fini, che a tutti noi fa piacere. Bene, volevo capire una cosa. Ormai siamo abituati a un Fini che stupisce sulle questioni bioetiche, sulle questioni di profilo istituzionale da quando è presidente della Camera, sulle questioni bioetiche da molto tempo, su tante altre questioni che riguardano la laicità dello Stato, su tante altre questioni anche che riguardano l'economia, la politica della sicurezza, l'immigrazione, la società multietnica. Fini ci ha abituato, diciamo, ad accenti e toni così diversi da quelli che si aspetterebbero dal leader, si sarebbero aspettati ieri dal leader di Alleanza Nazionale, finché c'era, naturalmente. Naturalmente la cosa è stata presa in modo politicista, no, Perina? Credo che lei possa essere d'accordo con me. Cioè, tutti hanno detto, fa così perché deve gareggiare con Berlusconi o con Casini prima, deve... Perché è presidente della Camera, ecco, svolge un ruolo istituzionale. Ecco, bravo. Ieri invece mi è sembrato che fa così perché ci crede, cioè perché ci crede, perché sa che una, non lo dico in modo ingenuo, no, moralistico, il politico che crede nelle idee che predica, in politica si crede sempre, e contemporaneamente le idee sono strumenti, questo è un fatto della politica, quindi le si usa un po'. Però il problema non è quello, è che proprio ha dato l'impressione di averle incorporate, sono una sua nuova verità, una sua nuova identità e una sua nuova visione. Questo fatto di dire con quella... precisione, no? Precisione assoluta. Dice, nel 1994 l'espressione era anche molto bella, eravamo esuli in patria, si parla di quando appunto l'ex MSI, ancora prima di Alleanza Nazionale, già al governo con Berlusconi nell'avventura del 94, si considerava esuli in patria, cioè facevamo i conti col passato. Adesso che siamo così protagonisti della politica italiana, ormai legittimati e accettati e super accettati, forse anche più per quanto riguarda Fini accettato dello stesso Berlusconi, dobbiamo fare i conti con il futuro. Non è un semplice retorica, mi è sembrata una cosa vera. Perina, secondo lei il centro di questa nuova, diciamo, identità che è nel farsi, che non è appunto manutenzione della memoria, qual è? Qual è l'idea che traina tutte le altre? Questo vorrei capire. Io credo che innanzitutto che Fini abbia superato con questo intervento, ma anche con precedenti prese di posizione, quello che è stato storicamente il limite culturale della destra politica italiana dal MIS in poi, e che era quello di interpretare un po' la politica come una sorta di pesca delle occasioni, dove ci si registrava sull'emergenza quotidiana, sul governo talvolta delle speranze, talvolta delle paure, ma sempre con una visione limitata alla gestione della prossima campagna elettorale, della prossima alleanza, della prossima scadenza a brevissimo termine. E la destra ha spesso pensato molte delle cose che Fini sta declinando in questi giorni, a cominciare dal superamento delle categorie di destra e di sinistra, ma altrettanto spesso non lo ha detto perché non lo riteneva conveniente, e aveva un po' un imprinting del vecchio MIS, che ha avuto grandi problemi di sopravvivenza addirittura fisica, e aveva un po' questo imprinting di gettarsi nella pesca delle occasioni. Io ricordo, insomma, un dato un po' centrale anche nella storia missina, che è stato ad esempio quello del posizionamento sul divorzio, argomento sul quale probabilmente metà della classe dirigente della destra e oltre metà del suo elettorato non erano assolutamente d'accordo, e un posizionamento che fu scelto perché si riteneva in quel modo di riuscire in qualche modo a entrare, ecco, in una dialettica con la democrazia. Ecco, con questa cosa mi invita a nozze, cioè è forse il tema della... perché c'è un punto del discorso di Fini che io naturalmente non condivido, quando ha detto la religione per noi è un fatto individuale se non privato, mai collettivo, la religione va rispettata, rispettata naturalmente, ma insomma è il sentimento della persona. Invece, diciamo, da Tony Blair a tanti altri nel mondo, oggi ma anche ieri, insomma, sostengono un'altra cosa, e cioè che la religione è un fattore che si incorpora ad una civiltà ed è uno dei primi fattori culturali di presenza pubblica nel teatro pubblico, delle scelte che fanno, diciamo, le comunità, e quindi non va trattata. Anche Sarkozy è approdato a questa visione delle cose. Allora, non so, è questo, lei citava il divorzio, Perina, è questo, cioè la riscoperta tanti anni dopo che in fondo una destra europea democratica moderna deve, nella questione della laicità assoluta dello Stato e della separazione tra Stato e Chiesa, trovare un suo cuore pulsante, è questo? Ma non metterei, secondo me, la categoria al centro del ragionamento di Fini è proprio il superamento dello schema della destra e della sinistra. Questa è sicuramente la categoria al centro. La declinazione di una laicità positiva, che appunto è comunque nelle corde anche della tradizione della destra italiana, è sicuramente un punto forte del ragionamento di Fini, che però, stiamo attenti, non ha negato il rilievo pubblico della religione. Si è limitato a mettere in guardia rispetto a fondamentalismi, atteggiamenti di fondamentalismo che sono portatori di scontro di civiltà. Io insomma magari mi sbaglio naturalmente, ma ci ho visto invece un accento diciamo meno compatibile con l'idea appunto di una laicità positiva, ma comunque forse sbaglio io. Mellone, buongiorno, come sta? Io splendidamente. Reduce dalle fatiche di Omnibus, una maratona oratoria. Tra l'altro mi ero preparato anch'io, come penso alla Perina, quindi era una efficace pugna contro il Ferrara, avrebbe criticato il discorso di Fini, invece mi ha spiazzato, perché adesso non so, toccherà criticarla a me, cosa devo fare? forse mi toccherà criticarlo voi. No, la storia della destra volevo capire bene, perché anche chi ci ascolta alla fine potrebbe dire, ma di che stanno parlando? Ma Fini non è un leader della destra italiana, non è in quanto tale che diciamo attraversa quel ponte che era il palco dell'ultima giornata in vita di Alleanza Nazionale ed entra in questo Popolo delle Libertà, che è la fusione di Alleanza Nazionale, Forza Italia e varie altre rappresentanze, diciamo, politico-elettorali del centrodestra italiano. La grande barca dei moderati ci entra in quanto capo della destra. Allora, come mai invece, di fronte a un La Russa che è sembrato ingenuo, no? Il coordinatore, il reggente di Forza Italia, il ministro della difesa, che ha detto noi siamo la destra, vogliamo che in Italia si cominci a dire con rispetto, come si fa in Francia si dice la droite quando si parla di Sarkozy, ma nessuno disconosce a Sarkozy in quanto leader della destra gollista francese di essere pienamente un repubblicano, un laico, parte, diciamo, del sistema pubblico francese, istituzionale, eccetera. E allora questo è il nostro obiettivo. E Fini, a sorpresa, ha detto, ma no, ma che destra? Non siamo la destra. Dobbiamo costruire una visione legata a valori, doveri, senso dello Stato, in cui, diciamo, qualcosa della nostra vecchia cultura ce la portiamo appresso, ma senza manutenzione della memoria e senza riflessi identitari. Non siamo la destra, siamo una cosa nuova, se no tanto valeva tenerci Alleanza Nazionale. È abbastanza traumatica l'idea che Fini dica io non sono la destra, o no? Simbolicamente. Fini ha cercato ieri di fare tante cose con quel discorso. A mio giudizio, per quello che chiedeva lei, Fini ha preso atto che destra e sinistra sono categorie novecentesche, no? Si potrebbe anche coniare uno slogan, probabilmente la sfida che adesso è il nuovo partito unico è quello di passare appunto dal centrodestra al Popolo della Libertà come nuova categoria della politica, come nuova formula politica. Lui non ha detto non sono più di destra, ha detto che agito anzi dire solo di destra, ha detto anche di destra, e ieri ci sono state una serie di identità che si sono sovrapposte. Fini, appunto, ha detto bene lei, ieri, almeno questa è la mia opinione, ho avuto l'impressione, ha fatto un discorso da leader di una destra repubblicana, moderna, laica ma non laicista, pronunciando parole che un Nicolas Sarkozy, un David Cameron, ma anche un leader dei popolari spagnoli come Rajoy o lo stesso Aznar sottoscriverebbero dalla prima all'ultima dalla prima all'ultima lettera, anche sul problema dell'identità. Lui non ha detto prendiamo l'identità e buttiamola a mare, poi ovvio che ci può essere anche una lettura meno benevola di queste frasi. Lui ha detto non bisogna più preoccuparsi dell'identità del partito, dobbiamo preoccuparci dell'identità dell'Italia fra 10 anni. Però aggiungendoci cosa? Che questo tipo di visione era già contenuto nella svolta di Fiuggi nel 1995. Ha detto lui, cioè noi ci siamo tolti i problemi della ideologia, i lacci ideologici della destra, lo statalismo, il corporativismo, l'idea del nemico come categoria della politica, non oggi. Ci siamo tolti quell'appesantimento programmatico già 15 anni fa, quando una serie di persone che hanno fatto Alleanza Nazionale si sono posti il problema non più della fazione ma della nazione. Ha parlato di amor di patria, ha detto tutta una serie di cose, cioè, però la visione, quindi la stella polare è questa. All'interno di questa cornice simbolica, progettuale, che ripeto, a me sembra quella di un leader di una destra repubblicana europea, sì, ma diciamo così occidentale, all'interno, poi in maniera lucida, ripeto, poi possiamo condividerlo o meno, possiamo più o meno essere d'accordo su quello che ha detto Fini, ma certamente non si può negare la lucidità quasi algida, quasi razionale, molto razionale del suo discorso, era una serie di anelli quasi perfettamente concatenati. Poi lui ha declinato una visione per la politica, lui ha detto fra 15 anni, io più modestamente qualche giorno fa ho detto Fini già sta pensando al 2013, a quando questa legislatura finirà, che però ripeto anche questo è perfettamente coerente con un quadro di appartenenza al Partito Popolare Europeo che di qui a fra una settimana vedrà anche la destra italiana come protagonista. Cioè quello, il discorso della identità su cui lei giustamente, correttamente va posto l'attenzione, ecco, io non la vedo come dire basta chi se ne frega dell'identità. L'identità, ha detto Fini, non può essere, come dire, il laccio attorno a cui uno lega l'impossibilità di parlare una platea più grande, di fare un partito, detto lui, moderno, aperto, inclusivo, vero. Io accetto questa interpretazione, diciamo, è sempre una semplificazione quando si fa una sintesi delle idee di chiunque. Certo, lei non l'ha fatto. È vero, c'è anche questo elemento, cioè non ha mollato in modo spettacolare, plateale, se vogliamo, l'identità. Cioè, non ha detto, ne ha corroso l'elemento conservatore, esattamente, lui addirittura ha detto un'altra cosa, ha rivendicato, in sì, questo ovviamente ci può essere anche una forzatura retorica, anzi secondo me sicuramente c'è, però ha rivendicato addirittura al congresso di Fiuggi del 1995 la paternità dell'intuizione che Alleanza Nazionale nel momento in cui veniva fondata già conteneva in sé i germi del suo superamento. Un breve, siccome abbiamo puntato sul carattere algido di tutta l'operazione razionale, sì, iperrazionale, eccetera, volevo, sì, chiedere alla Perina, a Flavia Perina, che diciamo in genere porta come personalità pubblica, come giornalista, come direttrice di un giornale, il suo essere donna con molto rigore, con molta severità, senza. Volevo chiederle questo. Filippo Ceccarelli, che non è uno stupido cronista culturale di costume della Repubblica, ha dedicato un'intera pagina del giornale oggi a Elisabetta Tulliani, la nuova compagna di Fini. Il senso del suo articolo è questo, è un articolo molto rispettoso, senza pettegolezzi stupidi, eccetera, anzi mette le mani avanti, chiede scusa, però il senso dell'articolo è questo. Nuova compagna, nuova famiglia, c'è anche una bambina di mezzo, nuove prospettive, nuovi orizzonti, nuova vita. La vecchia famiglia era la famiglia di una stagione che si è conclusa e questo elemento privato, oggi che le cose private sono sempre in pubblico per ragioni che sappiamo e per come è fatta la struttura della comunicazione, il mercato della comunicazione, insomma un elemento privato sottolinea una svolta pubblica. Lei è d'accordo con questo articolo di Ceccarelli, con questa interpretazione? Ma lei mi sta riportando al vecchio il personale politico e non vorrei addentrarmi in questo tipo di discussione. Una volta si diceva il personale politico, non so se fosse vero all'epoca, non so se è vero adesso, francamente penso che più che questo dato abbia inciso nelle scelte di Fini una seria considerazione di quello che è il passaggio nazionale al quale siamo di fronte, la prospettiva che citava prima Mellone, insomma, dei prossimi 10 anni o forse dei prossimi 5, credo che il resto sia casualità e divertimento giornalistico, approfondimento anche, per carità, ma non ci credevo ieri e non ci credo adesso. Bene. Eccoci qui, 800 24 00 24. Stiamo parlando del gran discorso di domenica di Gianfranco Fini, l'addio ad Alleanza Nazionale, fatto così di idee e di una dimensione non identitaria, quindi non orgoglio di partito, non orgoglio della destra, ma tentativo di individuare un futuro, una visione. Abbiamo al microfono anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno, lo ringraziamo. Sindaco Alemanno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ascoltiamo un paio di telefonate degli ascoltatori. Carlo da Milano. Carlo? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ma niente, io volevo semplicemente dire che il discorso di Fini, al di là degli aspetti prettamente, chiamiamoli ancora, di contenuto pari ideologici, credo che pongano le basi per un Fini che si candida con un certo spessore alla presidenza del Consiglio e a un presidente Berlusconi che dovrebbe probabilmente o vorrebbe diventare presidente della Repubblica. Questa era la mia idea. Competizione per due posti, però competizione per due grandi poltrone. Beh, la sua idea è ottimistica, no, per i capi della destra. Uno al Quirinale, l'altro alla presidenza del Consiglio. Sì, appunto. Va bene, grazie. Lei farà venire i brividi a tanta bella gente, a tanti cari amici nostri, degli ascoltatori anche di sinistra. Adolfo, dalla provincia di Como. Buongiorno, dottor Ferrara. L'ecciso dell'elefante che si muove nella cristalleria. Ho sentito tante parole lì dei politici, tutta nebbia. La mia opinione di un comune mortale, di un operaio che ha lavorato, un artigianello che ha lavorato tutta la vita, e dirò: Fini sta lì tranquillo, Berlusconi non ce la farà a governare, perché a settembre, quando gli italiani non sono andati in ferie, ci sarà la crisi, saranno arrabbiati. Fini passerà con qualcuno dei catto comunisti o solo col catto, oppure con altre persone, e Berlusconi verrà accantonato. Lei è contento perché Fini non l'ha attaccato, siamo d'accordo, ma la politica è l'arte di mediare, ragazzi. Saluto e saluto anche Alemanno. Bene, un saluto. Grazie. Un saluto anche a lei, dal super ottimismo al super pessimismo. Margherita da Vicenza. Buongiorno, signor Ferrara. La ringrazio, sì, tanto per tutto. Senta, io il discorso di Fini, a me non va questo catto proprio, è un catto comunista, neanche catto, comunista solo, perché questa religione, ma è uguale al comunismo, all'uomo senza Dio, ha fatto disastri. Allora io dico, è questo, si comincia con questo discorso, siamo deboli come uomini. Cos'è l'uomo senza Dio? Non riesce a fare quelle cose. Devo dire che Fini insomma non sembrava Odi Freddi, non è che ha fatto proprio un discorso di ateismo militante, Margherita. E sopra i comuni mortali, non lo vede, quando cammina, quando gesticola, lui sa tutto, non si pone il problema. Va bene, cominciamo a non parlare più di solidarietà, ma parliamo di carità cristiana, come ha scritto lei sul foglio, non so se sia stato lei o... Cioè, è questa carità cristiana, perché dobbiamo vergognarci? Sì, sì, ho capito. Insomma, a lei sembra che Fini si sia troppo asciugato in un ruolo appunto esclusivamente e soltanto e laicamente, diciamo, lontano dalle cose che premono a lei. Va bene. Dunque, Maurizio da Milano e poi Alemanno. Pronto? Maurizio? Parlare con lei. Dunque, io invece volevo fare, ho seguito attentamente ieri mattina sul Sky, sì, il discorso di Gianni Alemanno, che ho trovato, secondo me sarà lui il vero leader di Alleanza, del PDL in futuro, perché io sono sardo, eppure agli ultime elezioni ho votato Lega, perché la Lega, prendiamoci chiaro, ci difende, perlomeno... Il discorso della Lega è questo: di ognuno padrone a casa sua, le persone che vengono qui vengano per lavorare e si comportino in base alle nostre leggi. e non vogliamo nemmeno la Turchia in Europa. Alemanno è questo che adesso mi è piaciuto tanto, il fatto che abbia nominato... Invece mi pare di capire non le sono piaciuti, perché nel discorso di Fini c'era molto l'elemento il paese multietnico, sì, la necessità di accettare l'immigrazione come un dato strutturale della nostra storia, del nostro futuro, quindi fare i conti, il riferimento alla dignità della persona umana credo che riguardasse in particolare la storia della spiata dei medici a carico dei clandestini. Tutto questo invece a lei, mi pare di capire, insomma, non piace. No, non mi è piaciuto quasi niente. Va bene, grazie. La prossima volta che ci telefona, mi raccomando, chiuda la radio, perché sennò si sente dietro la sua voce tutto un flusso sonoro molto strano. Alemanno, buongiorno. Allora, buongiorno. Noi abbiamo rilevato una serie di elementi del discorso di Fini che tutto sommato ci sono piaciuti. Parlo anche a nome di Flavia Perina, direttore del Secolo, e di Angelo Mellone. Le idee, questa idea che insomma la manutenzione della memoria adesso basta, questa idea che destra è un concetto così rilevante della storia ma non esaurisce il significato del nuovo partito, questa tendenza a non essere identitario. Ci sono poi dei punti però anche più esplicitamente politici nel discorso che bisogna commentare, giudicare, sui quali bisogna fermarsi. Allora, non è stato un discorso di ostilità nei confronti di Berlusconi, però neanche un discorso di, come si può dire, di subordinazione, perché ha detto chiaramente entreremo nel popolo delle libertà non costituendo una piccola corrente minoritaria di alleanza nazionale, ma cercando di essere presenti. Massimo Franco sul Corriere della Sera ha definito il discorso una miscela di orgoglio e solitudine, ciascuno con le proprie idee, con la propria visione delle cose, e esigiamo che si possa discutere perché siamo contro il culto della personalità e il pensiero unico. Le chiedo un commento di questo che è stato un punto acuto, importante del discorso di Fini. Insomma, un partito nel quale si possa discutere. È sicuro, sindaco Alemanno, che voi entrerete in un partito nel quale si può effettivamente discutere e incidere con le proprie idee? Ma io sì, sono molto sicuro da questo punto di vista, per il semplice fatto che entrandoci sarà così per forza, insomma, nel senso che non è che noi, nessuno ci può tappare la bocca, ma questo lo do per scontato, ma francamente penso che tutto sommato neanche Berlusconi voglia una cosa di questo genere. Una fa al convegno di Formigoni, Berlusconi ha detto che bisogna fare entro un paio di anni i congressi provinciali e ha detto che bisogna sporcarsi le scarpe andando giù sul territorio. Quindi da questo punto di vista io credo che, sia pure con tutte le necessarie aggiustamenti, tensioni, qui non è che sia tutto semplicissimo, sta nascendo un nuovo soggetto politico per cui insomma bisogna superare anche tanti problemi di carattere organizzativo, anche aspetti di carattere personale, non tanto dei leader quanto appunto delle classi dirigenti. Però al di là di tutte queste tensioni, secondo me alla fine un punto di equilibrio si troverà fra una leadership riconosciuta e molto forte, e grazie a Dio che è così, perché attenzione, il grande problema del Partito Democratico è stato quello di dover costruire contemporaneamente un partito e una leadership. Sì. Noi invece abbiamo una leadership che è forte e che è riconosciuta, però questa leadership deve essere collocata in un partito che ha le sue regole, la sua democrazia interna, che poi tra l'altro è condizione indispensabile per selezionare i migliori, perché se facciamo un partito di nominati, come abbiamo detto di non voler fare, è chiaro che un partito di nominati non riesce a far emergere una classe dirigente qualificata e radicata sul territorio. E non fate un partito di nominati, però io ho ascoltato Denis Verdini dalla Lucia Annunziata ieri, poco dopo era domenica, insomma avevo tempo, e poco dopo stavo sempre davanti alla televisione, poco dopo avere sentito Fini, ho sentito il coordinatore di Forza Italia da Lucia Annunziata, in mezz'ora il suo programma. E lei gli ha chiesto, dice, ma come i gruppi dirigenti, come si formano? E lui ha detto, ma ci sarà un ufficio di presidenza, e dice, chi lo elegge? Dice, no, quello è di nomina di Berlusconi. E poi ha detto, questo ufficio di presidenza, 28-30 persone, di nomina di Berlusconi. Dice, poi c'erano tre coordinatori, dice, e quelli chi li elegge? Quelli sono di nomina di Berlusconi. Allora, io non, per carità, è un leader carismatico, un leader naturale, un partito cucito. Poi il Predellino è stata una genialata sua, è lui che ci ha creduto, è lui che ha quella specie di fuoco nella pancia che l'ha portato a dare battaglia per ottenere le elezioni, per battere Prodi con quella foga. Ed è lui che ha un sacco di soldi, idee, un passato, l'imprenditore. Insomma, Berlusconi è imbattibile in un certo senso. Però qui pare che faccia tutto lui. Beh, no, non è proprio così, nel senso che quelli sono gli organi esecutivi e quindi è naturale che il Presidente elegga, cioè nomini il proprio organo esecutivo, ma sotto l'organo esecutivo c'è un organo rappresentativo della direzione che invece viene eletto nel Congresso e sotto ancora c'è un'altra struttura che è espressione di varie categorie, tutte sostanzialmente elette. Insomma, quindi da questo punto di vista c'è il naturale bilanciamento, c'è in ogni partito un esecutivo nominato dal Presidente e un parlamentino, chiamiamolo così, che è questa direzione che viene nominata dal Congresso. Però oggi il vero problema che noi abbiamo non è tanto al centro, perché al centro comunque esiste un governo, esiste una realtà abbastanza consolidata, i gruppi parlamentari eccetera. Il nostro problema vero è in periferia, cioè la periferia che deve selezionare la classe dirigente sul territorio, perché noi tra un anno abbiamo le elezioni regionali e lì sarà il vero banco di prova del nuovo partito, perché se noi oggi abbiamo una crisi della governo degli enti locali da parte della sinistra, dobbiamo sostituirla con una nuova primavera di amministratori locali, ma questa nasce solo se ci sarà un partito che viene al territorio e rappresentativo del territorio, cioè il grande problema è là. E siccome i coordinatori provinciali, i coordinatori comunali addirittura sono eletti dalla base anche in maniera diciamo assembleare con tutti gli iscritti, beh, quello è il terreno vero della rigenerazione del partito. Oh, non mi ha ancora detto se il discorso di Fini, che per certi aspetti era diverso da quello suo e ancora con una nuova nota di diversità da quelli di La Russa, di Gasparri, di Matteo, non mi ha ancora detto se le è veramente nel profondo del suo animo piaciuto, cioè se lei aderisce a questa idea, Alleanza Nazionale si scioglie veramente e i singoli, le esperienze, le anime, ma senza una logica di corrente, entrano dentro questo contenitore moderato più vasto, fanno i conti col futuro, non più con il retaggio del passato, perché ormai non siete più esuli in patria e potete e dovete avere il dovere di costruire un partito non di una persona ma di una nazione. Le è piaciuto questo impianto veramente, oppure lei come leader della destra sociale, leader più giovane eccetera, ha un'idea così un po' più a falange del futuro politico del vecchio blocco di AN dentro il nuovo partito? No, io credo che l'intuizione di Fini stravolge la prospettiva, cioè dice pensiamo al passato, ma pensiamo al futuro, sia stata una bella intuizione sia programmatica che anche diciamo così retorica, nel senso che ha in qualche modo rovesciato l'ordine dei fattori. Detto questo, ovviamente ci sono delle differenze dal mio discorso al suo, perché ovviamente di come costruire questo futuro ci possono essere modulazioni diverse, però l'impianto che Fini ha dato è un impianto che non si può non condividere, cioè l'impianto di chi deve costruire una Italia che abbia un proprio contenuto identitario, che abbia le proprie radici, ma che non può. Non... Bene, è saltata la linea, ma si è capito che il sindaco Alemanno ha dato un'approvazione razionale, fredda, come piacerebbe d'altra parte lo stesso Fini, non un abbraccio entusiastico e retorico. Bene, mi sembrano buoni segni nella costruzione di un nuovo partito questa capacità di restare freddi. La politica è una cosa veramente crudele sul piano umano. Io ricordo ancora Fini e Storace come due gemelli siamesi praticamente. Insomma, era una collaborazione molto intensa, molto forte. Storace era il portavoce di Fini, del partito, sto parlando di 10, 12, 14 anni fa. E adesso la separazione così, insomma, è aspra, no? È aspra, lo sappiamo, sono state vicende che hanno portato a un cumulo di incomprensioni, a una scissione, a una battaglia elettorale. che è andata male per Storace, sebbene abbia raccolto 1 milione di voti, ma insomma adesso Storace ne ha detta una grossa, adesso anche per il gusto della battuta Storace non ha detto in riferimento alla famosa espressione che Fini usò a Fiuggi, lasciamo la casa del padre, espressione di tipo religioso, il che dimostra tra l'altro che la religione non è un fatto privato ma un fatto pubblico, per non farvi mai più ritorno, lasciamo la casa del padre, Storace ha detto una battutaccia, ha detto sì, lasciano la casa del padre adesso per entrare nella villa del padrone. È molto facile Alemanno fare, diciamo, dell'ironia su questa sproporzione, l'uomo così ricco, il grande imprenditore, l'uomo del capitalismo. In fondo la destra italiana è sempre stata, lo dico a lei che era il leader proprio di questa area insieme con Storace, anche la destra sociale, no? Una destra che si caratterizzava per la ricerca di un'alternativa di sistema, in fondo, cioè insomma la democrazia si poteva anche accettare, ma non se comportava anche l'accettazione di tutto il basto, diciamo, del suo funzionamento in regime di mercato, in regime capitalistico. Allora questo riferimento alla casa dalla casa del padre alla villa del padrone è veramente aspro e cattivo. Come ha reagito a una battuta così feroce? Ma vabbè, con un pizzico così di dispiacere, nel senso che mi dispiace quando vedo un vecchio amico che deve fare per forza queste battute così astiose, e le deve fare anche per una ragione di mercato elettorale, non è solo un fatto personale, perché vabbè, lui, i suoi successi sono tutti legati nel cercare di denigrare questo processo. Ma al di là di questo, il fatto centrale qual è? Che noi non è che entriamo in una Forza Italia come era 10 anni fa. 10 anni fa Forza Italia poteva essere il Partito Liberale di massa, il partito delle partite IVA, punto e basta, eccetera, un partito anche molto orientato al nord. Oggi invece Forza Italia è diventata un partito interclassista, è un partito che parla per esempio il linguaggio di Tremonti. Io sul libro di Tremonti, quello che dice Tremonti, ho una identificazione quasi assoluta, parla il linguaggio di Sacconi, che sta facendo un discorso del welfare molto serio e molto intenso. Quindi in realtà Forza Italia e Alleanza Nazionale oggi sono due contenitori largamente sovrapponibili, sia nell'uno che nell'altro troviamo i cattolici, troviamo i liberali, troviamo chi è più identitario, chi lo è meno. Insomma, si tratta sostanzialmente della naturale dialettica che c'è all'interno di un centrodestra del 40%. Però non è che Forza Italia è una cosa e Alleanza Nazionale è una cosa totalmente diversa, sono due cose in larga parte sovrapponibili. Certamente noi in questa esperienza portiamo un radicamento popolare, una cultura sociale molto più stratificata, molto più antica, però da questo punto di vista francamente troviamo degli interlocutori che sono assolutamente attenti. Se costruiamo un partito fatto di regole, fatto di partecipazione, io sono convinto che possiamo creare una realtà molto forte e molto strutturata attorno a Berlusconi, ma che non si riduce solo a Berlusconi. Bene, ultima domanda, perché il tempo vola, la farei alla Perina e a Mellon nell'ordine, poi anche Alemanno. Il mistero del predellino. Un anno fa, cioè oggi tutto sembra, ecco, vedete, c'è questa idea di un'alleanza strategica fatta di una unificazione sul piano delle idee, i riferimenti che faceva adesso Alemanno a Tremonti, a Sacconi, ma poi ci sono questi due popoli omogenei, c'è questo Stato Maggiore di Alleanza Nazionale, i cosiddetti colonnelli, poi Gasparri protesta, dice chiamateci almeno generali, che insomma c'è. In realtà è un partito unico, no? È un partito unitario, sta diventando questa cosa qui con ragioni solide. Uno poi può criticare, può non amare questa prospettiva, può militare dall'altra parte, è ovvio, ma insomma bisogna riconoscere che... Eppure un anno fa sul predellino ci fu una divisione astiosa, aspra. Cioè quando Berlusconi rilanciò e disse facciamolo questo partito unico, e lo fece in quel modo così un po' provocatorio con la brambilla in piazza San Babila da solo con i suoi di Forza Italia dal predellino di una Mercedes blindata, ci fu una reazione di quasi di offesa da parte di Alleanza Nazionale e di Fini. Perina, appena un anno fa dico, Per carità, quello fu una sortita di Berlusconi che irritò profondamente tutta Alleanza Nazionale, ma perché è ovvio, mi sembra, non è uno costruisce appunto un nuovo soggetto politico proclamandolo da solo in mezzo alla gente e in uno spirito che francamente era uno spirito di annessione. Alleanza Nazionale ha sempre creduto al progetto del partito unico, non ha mai inteso inserirsi in uno spirito di annessione, lo ha fatto presente. Poi anche quel tipo di dialettica è stata utile, io credo, nel proseguo dell'esperienza, dove sono ritrovati dei... Detto questo, a me il movimentismo poi di Berlusconi non mi dispiace per niente, e anche in relazione a quello che si diceva un po' prima sull'organizzazione, il nuovo partito, gli equilibri, i problemi dei dirigenti nominati, tutti noi esponenti singoli di Alleanza Nazionale credo che dobbiamo un po' ritrovare questo sentismo che è stato un po' anche il nostro per affermarci all'interno di questo contenitore, perché sicuramente le regole sono una garanzia, insomma, darete ma battaglia. La politica ci garantisce di più. Darete battaglia, Mellone, è questo il senso, mi pare, delle cose che diceva la Perina. Darete battaglia. Ma nel nuovo partito darete battaglia, se non siete d'accordo con Berlusconi glielo dite o no? Questo deve chiedere a chi fa politica. Io mi attesto in una posizione di osservazione, che questa, per esempio, osservare che anche Gianni Alemanno, che ieri con il suo concetto, elaborando il concetto di umanesimo identitario, sembrava aver assunto una posizione distinta e anche forse un po' distante dalle parole di Fini, dice quello che è osservazione reale. Cioè, ieri Fini, quando ha parlato di superamento identità, ha detto esattamente la stessa cosa, ha detto c'è già un'omogeneità di elettori, di valori condivisi, c'è una trasversalità, c'è Tremonti che dice cose che sono ben comprensibili alla destra sociale, e ce ne sono altri come Caspari che dicono cose che invece sono molto più comprensibili dalla Lega, eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è questo, e il problema è vedere appunto che cosa diventerà questo bene, partito. Bene, e mi faccio chiedere ancora, quindi diciamo il superamento dell'identitarismo è perché c'è una piena e ricca già identità politica, quindi non bisogna fare dell'ideologia identitaria, è così Alemanno? No, secondo me il vero superamento dell'identitarismo, diciamo così, di partito è nel guardare l'identità nazionale, cioè di guardare un'identità molto più ampia, o addirittura l'identità europea. Quindi in realtà non è che si cancella il dato identitario, si colloca il dato identitario nella dimensione giusta, che non è ideologica, deve essere quella legata alla nostra comunità nazionale con tutte le sue complessità. Io credo che Fini abbia fatto un grande sforzo ieri per parlare non a una parte ma alla maggioranza degli italiani. Bene, grazie al sindaco Alemanno, grazie a Flavia Perina e a Angelo Mellone, come sempre in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Un bacio, a domani.